Scendo le scale molto velocemente. Il tempo di orientarmi e mi fiondo davanti alla mappa. Alcune linee si assomigliano e mi confondo, ma scelgo la mia destinazione. Si aprono le porte. Scusi, per la metropolitana? C'è la scritta. Jungle Ground. By the power of Ra. Fa freddo, ho i piedi nudi e gelidi, mi sento intirizzito e umido. Nella terga l'acuto dei sassi aguzzi su cui non ricordo di aver preso giaciglio. Dei briganti m'hanno preso e derubato? Per fortuna no, ho ancora i miei scuti alle cinta e nessun taglio nel ventre. Ieri sera troppo sidro in taverna, forse? Se lo è una burla ben riuscita. Porgerai i miei complimenti a John, Guy e Angus, insieme alle sonore vergate di ringraziamento. Dove mi hanno scaricato quei senza Dio? Dal freddo intorno pare ancora notte. Pare abbia dormito un intero giorno. Sarà meglio per me riprendere via di casa. Con un tale buio ancor manco di trovarmi in quel posto. Una casa o un porcile, non sembra. Piuttosto un'ima caverna per pipistrelli. A giudicare dal puzzo di guano che si spande fin dentro le vesti. Che infernale luogo è questo? This is easy. See me. I had laying around, I'm not playing kick darts till you lay in the ground. The heaviest pound for pound, genetic raised out of the ground. Oh, these are bars I had laying around, I'm not playing kick darts till you lay in the ground. The heaviest pound for pound, big gourd raised out of the ground. Oh, this is easy. I'm not playing kick darts till you lay in the ground. The heaviest pound for pound. la tana di un porco, o peggio, un'impronta demoniaca sperta in ogni dove, che mi fugge come l'attacco di lupi o l'arrivo della peste. L'uomo, quale uomo in pace con un buon Dio potrebbe concepire una simile mostruosità? Di umano a nulla, e non creato per gli uomini di sicuro. Questa spelonca è per vermi e serpenti, o talpe smarrite o orecchietti troppo malati anche per i lebbrosari. Nessun uomo o pianta potrebbe vivere in un buio e un'aria così sudicia. Eppure il similare dell'aria che spinge di lontano porta al vociare di genti. Ad ogni respiro il gelo empie i polmoni ed il passo si affanna sugli aspri sassi sparsi ovunque, inaccessibile a chiunque il cammino in questi antri. Da terra ora si spande di sangue l'odore, i due lame di una lunghezza infinita corrono da un buio all'altro. Di quale oltretomba è la porta? E quali demoni potrebbero mai sortire da un tale pozzo orizzontale? Un budello di cui non si vede neanche l'inizio e fine, baratro salvezza, un fiume di ferro, immondo, pietre e notte, e il sangue mio si gela in questa desolazione. fredda e docile, ora invece scalda, sventola e spinge. L'aria che ora sa di uomo e pelle sulla sua carne e del suo fiato. Usma di già sentito. Familiare, come l'ingresso del mercato nel giorno prima delle feste. Per un attimo mi sento in salvo, rincuorato e al sicuro. Con le narici l'odore di casa, di pecora e agnello, dell'uova e delle vesti. Nella mente il pungente odore delle costose spezie del Mediterraneo e delle Indie. Il rumore dei bimbi e i canti delle donne al fiume, della legna appena colta, dell'aria fresca delle colline intorno a casa. Chi potrebbe sottrarsi a tali bellezze, senza una colpa? Ma la mia gioia, richiamata così in un batter di ciglia, non può far altro che affacciarsi rapida e ritrarsi, come una lumaca che tocchi il sale, così da non rischiare di bruciare via la parte migliore di sé. Così rinchiudo i miei ricordi più docili per quando sarò lontano da qui, in salvo. Di ritrovare la strada mi preme e di comprendere, anche solo un po', questo mio destino da cosa sia causato. In questo buio e in questo vento mi faccio piccolo e solo, tale questo luogo ti brama, come una tensione tra sé e la sua peggiore, un luogo di prova in cui sono stato scagliato, per assaggiare la mia tempra e il mio spirito, per vedere se l'alma mia del buio e del gelo è più forte, se di caso nostalgia, se ha cuore le mie care cose ho. lontano un rimbombo comincia a montare, come di vomero sul ciottolo, dal silenzio irrompe. Poi, come una carica d'un esercito cavalli bardati, si alza un frastuono simile a un rumore mille maniscalchi, che insieme forgiano altrettante carrozze e spade, corazze e punte di lancia. I pensieri annegano nel caos, sotto ai piedi la terra comincia a tremare, vibra lo stridor di metallo che incalza. Dal fondo intanto due occhi di fuoco che atterriscono e irrompono dal buio, sobbalzando e tremano in questa nera gola di sconforto e paura. Con la furia di un topo alla carica mi spunta come un nemico ed intruso, invasore lo sono, ma come vittima e senza dolo. L'estremità mi tremano tutte, come pronto alla fuga e alla lotta, ma l'avversario mio non teme freni ed ostacoli. La sua corsa non vuole inciampi o tranello. Tutta la terra s'alza e fugge al suo passaggio come una frana di roccia, come il crollo di grotta. Altro non posso che accostarmi alla parete, come un ratto che scappi verso il rifugio, attendo solo di sopravvivere. Almeno il mostro mi corre alato dalla sua furia trionfo. La schiena si gela contro la parete, sparsa di muschi neri e fradici. Con le unghie un appiglio cerco, la testa infossata nella melma a cercare riparo. Thank you. pochi attimi dal nulla esce. È un carro, capisco. Sinuoso come un rettile, letale come un drago ferito. Scorre rapido e urlante, quasi sfiorandomi il volto. Le pareti intorno per la sua mole perdono malta e stabilità. Mi appiattiscono alla parete gocciolante. Terrorizzato osservo il suo scorrere. Come un ratto impazzito sgrano gli occhi a prevenire altro pericolo. Riesco a scorgere l'interno, seppur sei tanti le centinaia di dannate anime che trasporta ammucchiate come topi in fuga dall'incendio. L'inferno è questo, quindi. Maledetto sono io a trovarmi qui, dannato per atto o pensiero mortale commesso. Mi avvicino al mio destino, quindi, uomo di cuore sono, e non più di altri merito questo fato. Ma di giudicare gli uomini non c'è concesso, all'uomo quanto mai se stesso o il prossimo suo. Addio nel giorno della ora giusta questo compito. System check, remix, bass, 37 hertz, bass, 44 hertz, bass, 55 hertz, bass, 65 hertz, net bass hertz, warning, distorted bass. Hertz. Low pass filter. Drums test, kick drum, warning, potentially dangerous virus in the system. CPU temperature predicted, virus identified, generation don't have effect. System check. System check. delitto mai commesso per vagar così smarrito in un limbo senza sentenza tra due mondi, senza condanna alcuna. Quegli uomini scorrono verso il loro destino e qualcuno dagli inferi a portarli. Di certo è Caronte a poter condurre questi disperati di schianto alla meta loro, non silenziosi o rassegni. Chiedono aria e pietà o consiglio nel loro ultimo viaggio. Forse da uno di questi carri sono io caduto, sbalzato o gettato, per sfregio, scherno o fortuna mia soltanto. Un'altra occasione forse, una lezione che il caso ha voluto rendermi per presunzione o altro, o millantarmi per un demerito. Non è il mio giorno quindi, non oggi e non qui. Altri prima assaggiarono un tale errore e ritornarono. Di nome alcuno che non fosse un inventore di fandonie o un tocco di mente o memorie. Ma tentare io devo e conquistare una libera via per il ritorno io voglio. Alla mia casa tornare e far ammenda dei torti e delle prepotenze. Così mi aprirò una strada verso la mia dimora. convoglio si allontana e con esso il suo ruggito. Comincio a correre, quindi nella direzione opposta, a perdifiato. Inciampo e cado, le mani si sbucciano, annerisco fino alle ginocchia. Mille odori tra muffa e piscio, liquami e morte. Vacillo d'una forza che in tal modo m'abbandona rapida e senza ingegno. Ma di paura e foga son colmo, presto le forze m'abbandoneranno. In questa corsa senza criterio, ristoro non trovo nella fuga dissestata che compio, verso un buio che ormai è tornato pesto. Seguo l'olfatto, per creare sentiero che almeno abbia meno il sapore del senza scampo. Attento e cauto mi preme restare ora. Secret government mission to ride Street Hawk, an all-terrain attack motorcycle designed to fight urban crime. Capable of incredible speeds up to 300 miles an hour. Only one man, federal agent Norman Tuttle, knows Jesse Mark's true identity. Calma in recupero. Lesto, ora devo celare. infilarmi prima che alcun demonio si accorga dell'errore e possa per troppo zelo rigettarmi nel prossimo carico, a completare un'altra mandria di condannati. Per quanto questo transito sia macabro e senza vita, altri mille tormenti mi immagino, rifuggo il pensiero di cedere a tale malsana idea, di venir sconfitto, di non lottare, di cadere e venir via trascinato. L'imperizie loro sarà la mia causa di riscatto, la mia forza e determinazione. Avranno di certo la meglio di questo mondo infimo, pregno di abbandono e scarto di cupidigia. Yes, boss. Ritorno in me, scruto intorno e ascolto. L'aria è irrespirabile, inquinata dall'acqua nera che trasuda dalle pareti. Fetida e maleodorante la polvere m'acceca. Respiro affannato, la testa gira nell'aria viziata. A breve distanza dalla volta un raggio pallido e smunto filtra, fioco e diafano. Un tale scarno dettaglio diventa una speranza in questo luogo. Qui, dentro questa luce, sembra di stare sul fondo del pozzo o lo sfiato di una segreta. Centinaia di piedi calpestano incessanti la grata. Chiedo aiuto, una volta, ancora, e poi ancora. Per ore cerco un appiglio per salire. La parete è unta di foglie marce. Insidioso l'ostacolo insormontabile. Non andate! Grido. Sono qui sotto! Il mondo di sopra è troppo distante, già in trappola senza saperlo, senza speranza, senza via e senza fuga. Altre anime in corsa verso il niente, moltitudini in cammino verso il basso, l'orizzonte murato, il cammino deciso. Non andate! La salvezza è in altra direzione. Lasciate che vi avverta dal pericolo che state assecondando. State all'aria, al sole, alla luce. Rifuggete la seduzione dell'ombra e del nascosto. Bramate l'ingegno semplice. Lasciate le vostre suole sull'erba. Colmatevi il petto di foresta e altura. Montate sull'albero per guardare oltre. spargete il seme della gioia, non caricate di tesori i vostri carri, poiché loro non vi sfamerà di certo. E se per voi è troppo tardi, trovate il tempo, scovate il tempo. Ve ne prego, almeno ai vostri figli, elargite la lezione. Ora io abbandono il vano tentativo, da cui in fondo mi è ormai impossibile salvare chi che sia, me stesso o l'intero mondo. Scusate tanto e lasciate che io trovi un'altra strada per tentare di ravvisare il mio passo e trovare una corona da cui passare nel mio mondo di nuovo. D'improvviso qualcuno grida: ehi tu! Chi sei? Non puoi stare qui! Mi fermo e penso. Chiunque sia non sta cercando me. Mi appoggio lievemente, chino in avanti. Con un filo di fiato rispondo: che dannato posto è questo, uomo? Dove ci troviamo? è scocciato come fosse un fastidio e nient'altro. Non c'è allarme nel suo tono, un accento strano, ma nessuna minaccia. Vattene di qui, prima che mi decida a chiamare un Bobby. Dove ci troviamo? Ripeto. Un altro dannato barbone ubriaco risponde. Dove vuoi che ci troviamo, amico? Tra South Kensington e Knightsbridge, nell'underground a Londra, in Inghilterra, sul dannato pianeta Terra. Yeah.